Cow, boys in the storm. Cow, boys in the storm. Stormi di corvi intorno a cuori. Vago nella notte, un uomo s'accascia, manca striscia il suo barbone. Look, rivolte tasche, nada, denaro. Mentre urla un mondo avaro, raro, combattente di rabbia. Urla, gabbia. Sdraiato nell'angolo di strada, brada. Marlon Brando con in tasca nada, raga, nada per nada, vita di strada. Un altro raga stanotte vaga. Randaggio in un mondo cranio, randaggio, adagio. Vandalo accusato di ruba e plagio. Ma ivi in realtà fu mago. Ora biascica la sua nana. Come una nuvola oro. Gli parla, urla ancora, non ha nada. Ma il suo cuore dilaga. Lei bella come la luna stellata. Un campo di corvi intorno al cuore di un altro ragazzo pazzo. Preso pupazzo ma sopra un razzo. 100.000 all'ora di un bacio nel vento strazio. 100.000 all'ora di un bacio nel vento strazio. Cowboys in the storms. Cowboys in the storm. Stormi di corvi intorno a cuori, vago nella notte, eh? Un uomo s'accascia, manca striscia il suo barbo look, rivolte tasche, nada, denaro. Mentre urla un mondo avaro, raro, combattente di rabbia. Urla, gabbia. Marlon Brando con in tasca, nada, raga, vado e vada per vada. Vita di strada, un altro raga, stanotte vaga. Randaggio in un mondo cranio, randaggio, adagio. Vandalo accusato di ruba e plagio. Ma ivi in realtà fu mago. Da sua nana, come una nuvola oro. Gli parla, urla ancora, non ho nada. Ma il suo cuore dilaga. Lei bella come la luna stellata. Un campo di corvi intorno al cuore di un altro ragazzo pazzo. Preso pupazzo ma sopra un razzo. 100.000 all'ora di un bacio nel vento strazio.